Mai più fame. Leggo nella Bibbia, nel Vangelo di Giovanni, capitolo 6, versetti 26, 27 e 35. Gesù rispose loro: in verità vi dico che voi mi cercate non perché avete visto dei segni miracolosi, ma perché avete mangiato dei pani e siete stati saziati. Adoperatevi non per il cibo che perisce, ma per il cibo che dura in vita eterna, e che il Figlio dell'uomo vi darà, poiché su di lui il Padre, cioè Dio, ha apposto il proprio sigillo. Gesù disse loro: io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà più fame, e chi crede in me non avrà mai più sete. Molte persone anche oggi sono a caccia di miracoli e dicono che se vedranno un miracolo crederanno in Dio. Se Dio facesse questo o quello, se mi facesse vedere questo o quello, allora sì, potrei credere in Lui. Ma il fatto è che di miracoli ne accadono continuamente, eppure molta gente continua a non credere. Infatti il miracolo non è sufficiente per produrre la fede, e non è questo il suo scopo. Questo è facilmente dimostrabile anche osservando i miracoli che Gesù ha fatto e che sono stati riportati negli Evangeli. In particolare, nell'Evangelo di Giovanni viene utilizzata diverse volte la parola segno, associandola ai miracoli che Gesù faceva. La parola segno indica proprio lo scopo dei miracoli di Gesù. Non potevano produrre la fede, ma erano dei segni, delle indicazioni che dovevano portare le persone a riflettere sulla vera natura di Gesù. Spesso però le persone, proprio come capita anche oggi, si fermavano al segno, rimanevano stupite di ciò che vedevano, continuavano semplicemente a seguirlo in cerca di altri segni, ma questo non le portava a riflettere seriamente su chi era Gesù e sulla possibilità di cambiare le proprie vite. Nel contesto dei versi che abbiamo letto, Gesù aveva appena fatto un grande miracolo, moltiplicando 5 pani d'orzo e 2 pesci per saziare diverse migliaia di persone. Di fronte ad un segno del genere, molte persone lo andarono a cercare e lo raggiunsero a Capernaum. Ma la risposta di Gesù evidenzia proprio il tipico problema di chi ha visto un segno ma non lo ha riconosciuto. Essi lo cercavano perché erano stati saziati e volevano che ciò accadesse ancora, ma non avevano capito che Gesù aveva qualcosa di più importante da dare loro. Per avere altro pane ci sarebbe voluto un altro miracolo, e poi un altro ancora il giorno dopo, e così via. Ma Gesù aveva fatto quel segno per portarli a riflettere sulla sua vera natura e sul loro vero bisogno. Gesù era il pane che non serviva solo a saziarli per qualche ora, ma che poteva saziarli per sempre, dando loro vita eterna. Essi avevano mangiato il pane frutto del miracolo, ma di fatto non hanno visto il segno, non hanno capito che tale miracolo serviva ad attirare la loro attenzione sulla persona di Gesù, che poteva saziare il loro vero bisogno di salvezza. Oggi le cose non sono diverse. Possiamo anche essere testimoni di un miracolo, ma se non cogliamo l'occasione per riflettere e per avvicinarci davvero a Dio, l'effetto di ciò che abbiamo visto andrà pian piano scemando e dopo un po' di tempo avremo bisogno di vedere altri miracoli per saziare il nostro bisogno. Rischiamo di diventare miracolo dipendenti che non sono mai sazi. Il Signore può certamente intervenire per soddisfare i nostri bisogni temporanei, ma se lo cerchiamo solo per questo, continuando la nostra vita come se niente fosse fino al prossimo bisogno, come se egli fosse il genio della lampada che rimane in attesa di soddisfare i nostri desideri, saremo sempre insoddisfatti e irrequieti. Gesù non vuole solo offrirci del pane, ma si propone come il pane della vita, colui che può davvero donarci vita eterna. Non cercare solo segni. Se davvero vuoi soddisfare in maniera definitiva la tua fame spirituale, cerca di capire chi è colui al quale puntano i segni. Se vai a lui, non avrai mai più fame. Se credi in lui, non avrai mai più sete.